Radio 24 Reportage. Inshallah Europa. La mafia dei trafficanti di Giampaolo Musumeci. Il pacchetto prevede il volo aereo, vitto e alloggio, un posto letto, i trasferimenti e l'arrivo a destinazione. Il biglietto naturalmente è di sola andata. Si paga tutto in anticipo, non c'è ricevuta. Il passaporto verrà distrutto a tempo debito. Durata del viaggio? Da pochi giorni ad alcuni mesi, magari anni. Ecco le proposte degli smugglers, dei trafficanti, di chi traghetta i migranti dall'Africa e dall'Asia fino in Europa. Migliaia di professionisti del traffico e della tratta che hanno a disposizione mezzi, armi, conoscenze. Camion, battelli, telefoni satellitari, Kalashnikov. I trafficanti turchi, marocchini, afghani sono spesso in connessione tra loro, organizzati ed efficienti, pronti a farsi pagare fior di euro per condurre centinaia di migliaia di persone verso un sogno, spesso verso la morte. Il sogno si chiama Europa. Per pochi soltanto si avvera, perché costa lavoro, soldi, fatica e sangue. Gurgissi è un migrante indiano che ho incontrato a Ceuta, città spagnola autonoma in territorio marocchino. Gurgissi è partito dal Punjab e dopo quasi 2 anni è arrivato a Ceuta. Ascoltate il suo racconto. La mia è una lunga storia. Sono partito dall'India, da Nuova Delhi, il 5 dicembre del 2005. Sono arrivato in Etiopia in aereo. Ho aspettato 2 ore e poi ho preso un altro aereo per andare a Mali, a Bamako, dove sono stato fermo 2 mesi ad aspettare. Lì la mafia degli africani mi ha preso in consegna e assieme ad altri mi ha portato in una casa ad aspettare la tappa successiva del viaggio. Vivevamo in 30 persone in una piccola casa. La mafia mi diceva che non si poteva usare troppa acqua perché non avevamo pagato abbastanza. Poi l'agente della mafia mi ha detto che ci saremmo spostati in un'altra città del Mali e così siamo andati a Dugao. Lì ho aspettato 2 settimane. Allora la mafia ha procurato un camioncino. Eravamo 18 persone, carichi di carburante, bagagli, acqua e cibo. Dopo un giorno e una notte di viaggio abbiamo raggiunto la frontiera con l'Algeria e poi siamo stati lì fermi altre 2 settimane. Poi siamo ripartiti per un'altra tappa, un viaggio che doveva essere di 600 chilometri. Lungo la strada diventava il doppio, su e giù per le montagne, per evitare i controlli della polizia. 2 miei amici sono morti per il caldo. L'autista ha tirato fuori 2 sacchi di plastica. Abbiamo messo dentro i corpi e li abbiamo abbandonati in un crepaccio. Poi abbiamo proseguito il viaggio verso Tamarrasset e poi Gardea. Lì abbiamo aspettato altri 2 giorni chiusi in una casa. Poi ho dovuto prendere un taxi per passare la frontiera tra Marocco e Algeria. Il trafficante mi ha detto che era meglio così e che non c'erano problemi e nessuno ci avrebbe chiesto nulla. Invece alla frontiera i militari ci hanno fermato e chiesto i documenti. Ho detto che non avevo nulla e che tutte le mie cose le aveva in mano la mafia. Così sono finito in carcere. 2 settimane a Gardea e poi 3 giorni a Tamarrasset. Una notte i militari ci hanno caricato su un grosso camion e ci hanno riportato alla frontiera con il Mali. Ci hanno lasciato in mezzo al deserto e tirava un vento fortissimo. Mohamed, il trafficante algerino, Mustafa, il trafficante marocchino, e poi i Tuareg per passare il Sahara, il turco che ti nasconde a Izmir, l'afgano che ti dà le prime dritte a Herat, il poliziotto corrotto a Istanbul che chiude un occhio, l'agente indiano a Punjab. Un meccanismo gigantesco e rodato, fatto di piccole ed efficienti organizzazioni. Gurgissi conferma che i trafficanti marocchini chiamavano a Punjab il loro collega indiano per sapere se la famiglia aveva pagato. Spesso i migranti diventano ostaggi, poco più di merci nelle mani dei trafficanti, che non esitano ad abbandonarli nel deserto del Niger se il camion si rompe, o a lasciarli alla deriva su un canotto, o a picchiarli e torturarli se decidono che il denaro non basta. Il traffico di esseri umani è uno dei business più lucrosi al mondo. Guido Sciacchitano, sostituto procuratore nazionale antimafia della Direzione Nazionale Antimafia di Roma. Oggi viene considerato il secondo dopo la droga, perché costa meno e soprattutto perché vi è poca possibilità di essere individuati e quindi processati e quindi condannati per una serie di ragioni. Perché è difficile svolgere le indagini nei paesi di origine e di transito. Noi in Italia sviluppiamo molti procedimenti in materia di tratta, ma naturalmente cogliamo l'ultimo anello della catena, che è l'anello più basso, non quello della gestione, non quello della direzione, non quello che dirige l'organizzazione complessiva. La direzione dov'è? Esiste? Cioè, esiste un livello più alto che fa in modo che il migrante che arriva dall'India arrivi dove deve arrivare e coordina tutti i passaggi? Non pensiamo che ci sia uno spettro, naturalmente. Cioè, non è una direzione unica che gestisce tutto questo, assolutamente no. Evidentemente sono diverse organizzazioni che nei vari paesi si strutturano anche in modo diverso. I nigeriani sicuramente, ma se parliamo dell'India già è una cosa del tutto diversa. Non facciamo che ci sia una spettro mondiale che pensa a questo. Ci sono diverse organizzazioni naturalmente che sono dedicate a questa attività illecita. Per esempio una notevole organizzazione è anche quella dei cinesi. L'attività di traffico di esseri umani spesso si sovrappone a quello della tratta, per esempio delle prostitute, ma i due fenomeni sono molto diversi ed è utile tenerli distinti. In linea generale il traffico di clandestini riguarda persone che per varie ragioni, soprattutto ovviamente economici, per motivi economici, vuole venire dal paese di origine al paese di destinazione, quindi in Italia. Il che significa che prende un contatto con quelli che possono essere i trasportatori, che normalmente però appartengono a criminalità organizzata locale, e quindi paga un certo prezzo per arrivare in Italia, sia pure nei modi che sappiamo, non soltanto quelli con i gommoni che attraversano il Mediterraneo, ma anche quelli che vengono via terra attraverso le frontiere del nord-est. Quindi questi, una volta che vengono, rompono qualunque collegamento con il trafficante che le ha comunque portate in Italia e qui non avrebbe senso di mantenere perché hanno raggiunto il loro scopo. Invece la tratta di persone è del tutto diversa. Sono persone, uomini e donne, poi vedremo, che vengono in qualche modo costretti a venire. Loro non, di per sé non volevano venire, vengono costretti a venire in Italia o in altri paesi d'Europa, continuano a vivere in Italia sotto la pressione del trafficante e continuano a pagare il prezzo del loro trasferimento dall'estero all'Italia, ma soprattutto vengono posti in una condizione di assoluto, ecco, la moderna schiavitù. Vengono cioè portate con la forza, con la violenza, con vari metodi e così continuano a vivere la loro vita nel paese di destinazione. Quindi la differenza è ben notevole. Vi sono dei punti di contatto tra i due fenomeni, ma bisogna tenerli ben distinti. Certo, possiamo dire che il punto di contatto tra tratta e traffico è proprio nel viaggio, nel senso che molto spesso la rotta è la stessa e le persone sono le stesse? Molto spesso la rotta è uguale. Può capitare che le persone siano lo stesse, ma che hanno però una motivazione, come abbiamo appena detto, diversa. Sì. Può capitare perché molti metodi sono uguali, per esempio il cambiamento dei documenti, la falsificazione dei documenti può servire all'uno e all'altro, per esempio, ma è importante tenere presente che i due fenomeni sono distinti. Per ciò che riguarda il traffico, lei ha parlato di criminalità organizzata locale, che è quella a cui si consegna il migrante nel momento in cui decide di partire, poniamo, dall'Iraq o dall'Afghanistan o dalla Nigeria. Dopo però il migrante attraverserà vari paesi ed entrerà in contatto con criminalità organizzate degli altri paesi. Questo avviene per entrambi i fenomeni. Naturalmente il primo contatto è quello con la criminalità locale, però la criminalità locale, se si tratta dei clandestini, naturalmente prenderà contatti con altri per farlo arrivare in qualche modo a destinazione. Quello nigeriano dovrà arrivare, dovrà superare il Sahara, dovrà superare alcuni ostacoli ovviamente dati dai diversi paesi, prenderà contatto poi con chi li trasferisce attraverso il Mediterraneo. Ma sempre nel concetto che comunque chi viene vuole venire. Nel caso della tratta invece, questa persona viene molto spesso violentemente presa nel suo proprio territorio e lì c'è un'organizzazione del tutto diversa, perché viene subito sottoposta a maltrattamenti, a violenze di vario genere, perché debbono far perdere la volontà a questa persona. Nel senso che debbono assolutamente subordinarla a se stessi. Esiste una regionalità, cioè una peculiarità a seconda delle etnie rispetto all'attività criminosa? Cioè sappiamo che i nigeriani, ad esempio, hanno dei business fortissimi sulla prostituzione. Sì, i nigeriani soprattutto lavorano su due campi, la tratta di persone e il traffico di droga. E lo fanno in maniera contemporaneamente, lavorano sui due fenomeni. Facilmente la stessa donna può portare l'eroina o la cocaina Teniamo presente che la Nigeria è uno dei punti cui la cocaina che viene dal Sud America viene proprio stoccata in Nigeria o in altri paesi dell'Africa occidentale. Da questi paesi poi viene, è un grosso supermarket nel quale le varie organizzazioni criminali di varie nazioni si possono rifornire e trasferire la droga. Quindi una parte dei nigeriani poi la porta in Italia, soprattutto in Campania. Ma d'altra parte gli stessi nigeriani hanno collegamenti con il Medio Oriente per trasferire anche loro in Italia l'eroina che proviene dall'est d'Europa o comunque ancora da più lontano. E d'altra parte teniamo conto che sia la cocaina, l'eroina o la tratta di persone sono due fenomeni che hanno molte esemplarità. Per esempio entrambi hanno un paese di origine, un paese di transito, un paese di destinazione. E in fondo oggi guardare una donna che equivalga ad un pacco di cocaina non è purtroppo lontano dalla realtà. Uomini e donne come merci, dunque. C'è chi vuole arrivare in Europa e c'è chi è costretto. E la mafia dei trafficanti ci guadagna comunque. Nel solo viaggio in un caso, nel viaggio e nello sfruttamento e riduzione in schiavitù nel caso della tratta. Ma quanto fattura il business milionario dei trafficanti? L'OIL, l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, stima che nel mondo ci siano almeno 2,45 milioni di persone sfruttate in lavori forzati come conseguenza di processi di tratta di esseri umani. Questa stima include sia la tratta di persone a livello transnazionale, tra differenti paesi, sia quella interna, da un'area a un'altra della stessa nazione. La maggior parte di queste vittime, il 43%, è trafficata a scopo di sfruttamento della prostituzione, il 32% per sfruttamento economico-lavorativo, il 25% per ragioni miste. Sempre secondo l'OIL, di questi 2,45 milioni di vittime, 270.000 sono state trafficate e sono sfruttate nelle economie industrializzate, 200.000 nelle economie in transizione, 1.360.000 in Asia e nel Pacifico, 250.000 nell'America Latina e nei Caraibi, 130.000 nell'Africa subsahariana, 230.000 nel Medio Oriente e nel Nord Africa. Queste migrazioni forzate quanto fanno guadagnare alle organizzazioni criminali? Assumendo molto grossolanamente che ogni vittima abbia pagato il suo spostamento in media 6-8.000 euro, si va infatti da casi di pagamenti di 1.000 euro a cifre che arrivano ai 30-40.000 a seconda delle regioni del mondo, si può sostenere che nelle tasche dei trafficanti sono entrati tra 14,7 e 19,6 miliardi di euro. E questa cifra riguarda i soli trasferimenti e non i soldi che si possono guadagnare da un successivo e sistematico sfruttamento delle persone una volta a destinazione. Qui il business diventa ancora più fiorente. Ogni nazionalità pare avere la sua specializzazione criminosa, le sue peculiarità, perché è capace di gestire un certo business o capace di far passare i migranti da un certo luogo a un altro. Ma di questo ne parleremo tra poco.